Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Dieci minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo della vicenda Electrolux, domani l'incontro, oggi un'intervista del ministro Zanonato a Radio 24, in cui il ministro sostiene che ci sarà sicuramente una via d'uscita, che lo stabilimento friulano di Porcia non chiuderà e che Electrolux manterrà i suoi stabilimenti in Italia. Vorremmo avere la stessa fiducia, ma non abbiamo motivo per dubitarne del ministro. Ne parleremo in apertura. Ricordo che il piano Electrolux, lo stabilimento di Porcia, dà lavoro a 1200 persone e 2000 aggiuntive sull'indotto, ma dicevo, il piano prevede un taglio medio dello stipendio dell'8%. E qui le cifre discordano, perché un conto è il taglio sull'lordo e un conto è quello che viene in meno in busta paga al dipendente. Comunque sono circa 130 euro netti in meno al mese, la sospensione dei premi dei pagamenti delle festività che cadono il sabato o la domenica, congelamento di scatti di anzianità, riduzione del 50% dei permessi sindacali, a fronte poi di alcune iniziative di welfare come buoni pasto, buoni scuola, buoni asilo e quant'altro. Questo per aumentare la produttività dell'impianto friulano, portandolo vicino ai livelli dell'impianto polacco, anche se è chiaro che non arriveremo mai, devo anche dire per alcuni versi per fortuna, a quel tipo di salario. Il piano però non scongiurerebbe comunque gli esuberi già annunciati. Si parla di 180 persone a Solaro a Milano, 160 a Forlì, 331 a Susago e 150 negli uffici. Comunque di questo parleremo, così come parleremo invece su un fronte diametralmente opposto del piano lanciato da Barack Obama. Allora, Barack Obama questa sera farà l'atteso discorso sullo Stato dell'Unione, in cui il Presidente degli Stati Uniti ricorda e fa il punto su quanto fatto, sulle prospettive, non solo di carattere economico. Però da quello che si è già capito, anticiperà una richiesta di aumentare il salario minimo per decreto, il salario minimo dei dipendenti federali, e poi rinnoverà il suo appello al Congresso per estendere l'aumento salariale minimo a tutti i lavoratori federali e non solo ai nuovi contratti. E poi vuole una specie di scala mobile per tutti i contratti, cioè proporrà al Congresso di indicizzare i salari al tasso di inflazione, perché si fa notare alla Casa Bianca come dal 1938 il salario minimo sia stato aumentato 22 volte, ma sia stato altresì eroso da diversi periodi di alta inflazione. E quindi su queste iniziative nuove, sicuramente nuove per gli Stati Uniti. Sul fronte italiano, oltre al tema dell'Electrolux, ci occuperemo anche della vicenda Mediobanca nel corso dei mercati, accertamenti oggi della Consob su abusi di mercato. Tra l'altro faccio notare, visto che accennavamo a Mediobanca, che la borsa oggi è positiva di un punto percentuale sul FTSE MIB, più 1,20 a Parigi, più 0,70 a Francoforte, più 0,50 a Londra e più 0,50 anche negli Stati Uniti. C'è il caso di Hughes, che dopo un giudizio positivo, dopo aver molto ceduto a inizio anno, guadagna oggi il 10,1%, e poi c'è soprattutto il caso Mediaset, più 6,20% dopo le valutazioni di Deutsche Bank, valutazione positiva su un'eventuale fusione tra la Pay TV italiana e quella spagnola. È un tema di cui si dibatte da almeno un paio di mesi e ogni volta che riemerge il mercato va a premiare Mediaset. Bene anche Azimut, bene i conti, più 4%, e A2A più 3,50% come Mediolanum. Infine Tod's guadagna il 3% e Steam Microelectronics il 2,70% come Prysmian, Enel Green Power e Finmeccanica, ma anche Salvatore Ferragamo. Chi perde oggi? Il Monte dei Paschi, c'è qualche notizia, ieri la Banca d'Italia, oggi il Tesoro, adesso le racconteremo, meno 3,40%, Banco Popolare meno 3,20%, Pop Milano meno 2%, e quindi continua, anche se in forma più mitigata rispetto a ieri, l'effetto aumento di capitale annunciato dalla Banca dal Banco Popolare, 1,5 miliardi di aumento di capitale. Ancora, per quello che riguarda i temi, c'è una notizia che ha scoperto il Sole 24 Ore e a noi mette un po' di tristezza, possiamo dirla così, mette un po' di tristezza. Perché? Perché l'ultimo bando promosso dal Ministero Istruzione, Università e Ricerca, il MIUR, per le start-up, quindi per i giovani che vogliono lanciare una nuova impresa, al di là della retorica, tutti pronti a investire sui giovani, le nuove imprese, le idee, premiare le idee, bene, allora, il bando lanciato dal Ministero rischia di fallire a causa della richiesta delle banche. Ora, non voglio prendermela sempre con le banche, però abbiate pazienza. Il Ministero ha approvato 39 progetti con un finanziamento totale di 30 milioni di euro. Ai futuri però imprenditori, start-upper come si chiamano in gergo, le banche chiedono di versare di tasca propria una parte dei fondi fino a 50.000 euro per minimizzare i rischi dell'anticipazione dei fondi statali. Allora, in alcuni casi si arriva a una richiesta che è quasi simile al prestito che poi verrebbe erogato. E lì ricorderete, poi lo facciamo risentire un mitico Benigni, lo facciamo sentire subito, no, aspettiamo un attimo. Un mitico Benigni, il tecnico mi sta insultando, ma che ricordava un atteggiamento delle banche che può fare un po' sorridere. Però voglio dire, se è così, spiegatemi qual è il rischio che si prende la banca nello scommettere sull'intrapresa, sulla possibilità per un giovane di lanciare una nuova impresa. Se tu chiedi di versare di tasca propria fino a 50.000 euro a un giovane che vuole lanciare una nuova impresa, dove stiamo andando, al di là di tanta retorica? Pensate che nel 2009 un bando del Ministero dello Sviluppo Economico incontrò problemi analoghi, perché per accedere ai 55 milioni di finanziamento veniva chiesto ai neoimprenditori di ricapitalizzare a titolo di garanzia del prestito, tant'è che dei 663 milioni messi sul piatto ne furono spesi solo 23, il 3%, solo tre programmi del progetto Industria 2015. Allora, ripeto, se si chiede a un giovane imprenditore di mettere soldi che sono quasi equivalenti al prestito e comunque che possono arrivare fino a 50.000 euro per una startup, le banche italiane vadano a farsi un giro negli Stati Uniti e anche in altri paesi e vedano come funziona il finanziamento di vere startup in cui si crede, valutandolo per carità, ma una volta che credi nel progetto gli devi dare anche i soldi, se no a investire in bot, bond, titoli di Stato e altre amenità o depositare i soldi di notte alla Banca Centrale Europea per ritirarli la mattina presto, siamo capaci tutti. Lei è venuto qui, non ha soldi investiti, non ha titoli, non ha bot, non ha niente e vuole 100 milioni. E pretende che noi glieli diamo? Dettone! Lei non mi vuole dare 100 milioni! Ma lei va a contare il suo nome, dottor Dio t'aiuti! Lei si contraddice! No, non ho niente! Certo che non ho niente, vengo a chiedere 100 milioni. Perché se avessi 1 miliardo me li darebbe 100 milioni? Certo. Certo. Ah sì, eh? Certo. Ma se avessi 1 miliardo, glieli darei io a lei 100 milioni. 200. Tenga, 300 milioni. Qui. Tenga, non li voglio neanche. Me ne resta 700. Grazie tante. Non li voglio. Li mette in tasca. Non li voglio. Li mette in tasca. Se c'ho 1 miliardo mi dà 100 milioni. Allora, se io ho bisogno di una melanzana... Una melanzana! Devo andare dall'ortolano, devo avere 1 miliardo di melanzane a casa? Non me l'ha mai detto l'ortolano! Ce l'ha lei 1 miliardo di melanzane! Mai! Né di pesche, di quello che c'ho bisogno! Direttore! Ma dove siamo arrivati? Eh beh, ricorda molto, chiedere ai giovani imprenditori di versare un capitale di tasca propria a garanzia dei fondi statali, ma per favore, su, dai. Poi però per i soliti amici, i soldi si trovano sempre. Com'è la storia del San Raffaele, il miliardo? Com'è quella di Fondiere Sai, il 1,3 miliardi, visto che oggi Mediobanca è andata alla Guardia di Finanza e la Consob? Com'è che si trovano sempre i soldi per alcune persone? Tra l'altro poco fa è uscita la notizia proprio su Fondiere Sai che il GIP di Torino, Sandra Recchione, ha respinto la richiesta di patteggiamento a 3 anni e 4 mesi avanzata da Ionella Rigresti nell'ambito dell'inchiesta Fondiere Sai. Infatti il giudice non ha ritenuto congrua la pena, facendo anche riferimento alla parte pecuniaria della sanzione proposta, 30.000 euro, e alla concessione delle attenuanti generiche. Ha fatto anche presente che non ci sono stati risarcimenti alle persone offese, mentre domani il ministro della giustizia Anna Maria Cancellieri potrebbe essere sentita dagli inquirenti romani, che i titolari della vicenda relativa alle telefonate tra la cancelliere e la famiglia Ligresti, della quale è amica da tanti anni, questo l'abbiamo capito tutti, e dopo l'esecuzione di ordinanza di custodia nell'ambito dell'inchiesta torinese su Fondiaria Sai. Ma se il giovane si fosse chiamato Ligresti, gli avreste chiesto comunque di mettere in tasca propria... Sì, è vero, ho dimenticato Roman Zaleski, avete ragione, anche Zaleski, e ci mancherebbe. Va bene, andiamo sull'economia internazionale. PIL inglese, quarto trimestre, più 0,7%. Nel 2013 la Gran Bretagna ha visto l'anno migliore quanto a crescita economica dopo il 2007, più 1,9%. Mentre però il Parlamento britannico esorta la Casa Reale, la regina Elisabetta II, a ridurre le spese e a razionalizzare i ritardi dei lavori di ristrutturazione delle sue proprietà. Sarebbe bello che anche il Parlamento italiano invitasse il Presidente della Repubblica a razionalizzare le spese, visto che costa, se non ricordo male, il doppio il Quirinale, adesso vi do la cifra esatta, di Buckingham Palace. Denuncia, se ne è accorta, diciamo, quasi 20 milioni di disoccupati nel vecchio continente. Ben arrivata. Fino a che gli effetti sul lavoro non saranno invertiti, non possiamo dire che la crisi è finita. E qua siamo veramente alle banalità, mi permette la Lagarde. Ancora un terzo di chi ha meno di 25 anni in Italia è senza lavoro. Sono molto preoccupata, dice la Lagarde, per la situazione in particolare in Italia, in Portogallo, ma anche in Spagna e in Grecia, dove sono più della metà gli under 25 senza un lavoro. E indica però anche le strade da seguire per alleviare il problema della disoccupazione. We should not be trying to protect jobs, but we should be trying to protect employees. Non dovremmo cercare di proteggere i posti di lavoro, ma i lavoratori. In termini pratici, mi riferisco alle misure di aiuto per chi perde il lavoro per qualsiasi ragione, vuoi perché la tecnologia progredisce o perché l'economia retrocede o per altri motivi. Penso che le misure di sostegno a chi perde il lavoro debbano comprendere un mix di incentivi alla formazione e una ricollocazione del soggetto, se necessario. In questo modo il disoccupato ha una spinta, un incentivo a tornare sul mercato del lavoro. Credo quindi che ci sia un generale accordo sul fatto che si debba predisporre una rete di protezione che garantisca e che incoraggi un ritorno al mondo del lavoro, perché questo è il nostro obiettivo finale. Nel frattempo l'agenzia di rating Standard & Poor's ricorda che l'Italia resta sotto osservazione per il rischio sui conti pubblici. La crescita viene prevista allo 0,5% per quest'anno, ma restano le incertezze sulle politiche del governo e sul debito, atteso anche quest'anno in rialzo al 134% del PIL. L'Italia migliorerebbe con le liberalizzazioni, assieme a una riforma del mercato del lavoro rilancerebbero la crescita. Però lì è interessante capire quale sarà la nostra crescita quest'anno, perché il ministro Saccomanni oggi ha detto confermiamo il deficit al 2,5% nel 2014 e la crescita all'1% nel 2014. Ora, già la crescita è poca, mettetevi d'accordo, perché Confindustria, Fondo Monetario, OCSE, tutti stimano una crescita quest'anno tra lo 0,4 e lo 0,6. Il ministro Saccomanni dice l'1%, a casa mia è quasi il doppio. Non lo so, chi ha ragione? Lanciamo un test? Un quesito? Boh. Nel frattempo una buona notizia riguarda i comuni, perché c'è l'accordo tra il governo e i comuni per la mancanza di risorse derivanti dal passaggio da IMU a TASI. Al Ministero dell'Economia e Finanze oggi infatti è stato riconosciuto un ammanco di 700 milioni dalle casse dei sindaci, di cui 500 milioni sono già stati identificati. Ancora l'Istat fotografa una fiducia dei consumatori in risalita, a gennaio cauta risalita, però insomma dai 96 punti di dicembre ai 98 di gennaio. Però attenzione, perché la stessa Istat rivela che le retribuzioni nel 2013 sono salite dell'1,4%, ossia il livello più basso dal 1982. I salari comunque sono aumentati un po' più dei prezzi, che hanno fatto più 1,2%. Due notizie ancora e poi passiamo al primo tema, e mi riferisco al caso Electrolux. Da un lato torneremo sulla Sicilia, ma insomma non ci sono solo i ritardi nel pagamento degli stipendi e 26.000 lavoratori a rischio licenziamento. Il blocco alla spesa, il blocco alla finanziaria siciliana, cancella anche la lotta alla mafia. Tra i 558 milioni spostati nel fondo indisponibile per via dell'impugnativa del commissario di Stato, ci sono anche le somme che il governo Crocetta aveva destinato alle vittime di Cosa Nostra, ma anche alle associazioni che si battono in nome di Falcone e Borsellino, e le risorse che la Regione storna ai carabinieri. In totale sono saltati quasi 6 milioni di euro. La vicenda Mastrapasqua. La vicenda Mastrapasqua. Allora, non sono io il mostro, non mi dimetto. Ma chi ha mai detto che lei è un mostro? Guarda, giudizi estetici non ne diamo mai. È vero che le cariche non sono 25 ma sono 9. Non mi dimetto dal presidente dell'INPS, sono certificati i crediti ceduti dall'istituto. Lui resta indagato dalla Procura della Repubblica di Roma per presunte cartelle cliniche truccate e fatture gonfiate dell'ospedale israelitico di cui è direttore generale. Si dice sereno e ribadisce che non si dimetterà. E quando mai in Italia? Voglio dire, uno fa quello che vuole nella vita, però quando uno è indagato per una cosa del genere, magari, non so, può anche pensare a un atto etico che diventa quindi anche atto estetico. Sono il presidente dell'INPS, il vicepresidente di Equitalia per effetto di patti parasociali e di Idea Fimit, sempre per i patti parasociali che risalgono a prima che io arrivassi all'INPS, ho capito. Poi è membro di 6 collegi, cioè ADR Engineering, Autostrade per l'Italia SPA, Coni Servizi, Loquenda, Mediterranean Nautilus Italy e Eurtel, 9 incarichi. Confermato invece lo stipendio, finalmente abbiamo un dato definitivo, di un po' più di 1.200.000 euro l'anno. Allora, parlavamo di stipendi degli italiani, di retribuzioni e di crescita economica. C'è un caso in questo momento che si chiama Electrolux. La proposta, ripeto, è di un taglio dello stipendio in media dell'8%. Adesso ne parliamo. 349-238-6666 resta il numero per i vostri sms e poi la pagina di Focus Economia su Facebook. Allora, domani l'incontro tra il governo, però oggi il governo e appunto i rappresentanti dell'Electrolux, oggi c'è un vertice del Ministero dello Sviluppo Economico domani, oggi è intervenuto il ministro Zanonato, quello di cui aveva chiesto le dimissioni la governatrice del Friuli Venezia Giulia, nostra ospite la scorsa settimana, mi riferisco a Deborah Serracchiani, a cui si era associato anche il governatore o presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che ringrazio per averci raggiunto in collegamento. Buonasera. Buonasera, grazie a lei per l'invito. Allora, presidente Zaia, un attimo ancora, perché vorrei farle ascoltare che cosa ha detto Zanonato oggi, ribadendo che lo stabilimento friulano di Porcia non chiuderà, che certamente c'è una via di uscita e che Electrolux non mollerà i suoi impianti italiani. Vede una via d'uscita per questa vicenda? Certamente, teniamo presente che siamo il terzo paese produttore di elettrodomestici al mondo e il terzo paese esportatore. Non è il mercato interno che garantisce l'industria dell'elettrodomestico, l'industria del bianco, è il mercato mondiale dove esportiamo i prodotti italiani. Sono un po' tutte le aziende in difficoltà perché nel corso di questi anni sono arrivati nuovi produttori che hanno prodotti di buona qualità ma costi di produzione decisamente inferiori, e noi ci siamo posti sul terreno di trovare una soluzione che consenta alle grandi aziende che sono presenti in Italia di rimanere in Italia, di continuare a produrre e di continuare ad esportare. Quindi ci stiamo muovendo in questa direzione. Senta, il problema dello stabilimento di Porcia però sembra rimanere sul piatto, nel senso che nonostante queste ipotesi di taglio del costo del lavoro più limitate rispetto a quelle che abbiamo letto sui giornali, insomma, questa sembra in campo, insomma. Lei, no? Mi dica una cosa, sarà curioso che in questo paese si scatenino polemiche su cose che non esistono? Adesso lei insiste sul fatto che chiude Porcia. Porcia non chiude. È un'affermazione che creerà agitazione, creerà preoccupazioni, creerà polemiche, ma è un'informazione falsa perché anche Porcia rimarrà aperta. Anche Porcia rimarrà aperta, ci dice il ministro. Sente una cosa. No, vede, però si continuano a diffondere queste notizie perché è solo la notizia negativa che vi fa contenti, quella positiva vi disturba. Ce l'ha un po' con noi, ministro. No, con voi, con il modo di informare. Informiamo in modo corretto e la gente almeno si può rasserenare quando abbiamo notizie positive, no? Senta. Se si dimezzano gli stipendi e che gli stipendi saranno quelli polacchi, non è fare un servizio positivo. Ministro, nessun problema, noi abbiamo raccontato, l'ha fatto anche Simone Spezia, non che lo stabilimento di Porcia, allora, era a rischio chiusura da un lato, ma dall'altro, come abbiamo spiegato anche oggi, la riduzione dello stipendio dell'8% secondo la proposta, ribadisco, il piano però, a meno che lei non abbia altre informazioni, non scongiurerebbe gli esuberi già annunciati, 182 persone nello stabilimento di Solaro a Milano, 160 a Forlì, 331 a Susago in provincia di Treviso e altri 150 negli uffici dell'Electrolux. Poi vediamo se adesso la gente così sta più positiva, eh? Allora, presidente Zaia, fermo restando che il ministro ha assicurato che Porcia non chiuderà, lei cosa ha paura? Che venga ridimensionato Treviso, Susago? No, diciamo una cosa, innanzitutto che il contingente dei lavoratori messo in discussione con il vecchio piano di dismissioni e con questo piano ormai presentato sono 1600 in quattro regioni. Susegana, in provincia di Treviso, fra l'altro è il centro logistico dell'elettrodomestico per Electrolux. La verità è che noi come quattro governatori abbiamo chiesto un tavolo nazionale, lo stiamo chiedendo dal 12 di ottobre del 2013. E quindi questo è un contenzioso che interessa perché per noi in Veneto è come se chiudesse la Fiat in Piemonte. Voglio anche ricordare che a Susegana, dove c'è Electrolux, c'è un intero distretto industriale, cioè non è che Electrolux nasce lì a caso. Susegana è l'unica realtà che fa i frigoriferi ad incasso, che sono esattamente quei frigoriferi che vende a pochi chilometri di distanza tutte le aziende del distretto del mobile, che sono famose in tutto il mondo, quelle del Veneto, piuttosto che ha piena collaborazione con il distretto di Conegliano dell'Inox Valley. Per cui noi siamo preoccupati per il fatto che chiudere Susegana e comunque mettere in discussione un comparto del genere significa azzoppare un intero distretto industriale. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, nostro ospite in questo momento il presidente del ragionamento Luca Zaia, che domani assieme alla collega Deborah Serracchiani del Friuli Venezia Giulia incontrerà anche il ministro Zanonato al ministero appunto sulla vicenda Electrolux. Allora Zaia, ho capito quello che lei teme, perché Electrolux non è solo i dipendenti che ha, diciamo, ma è tutto l'indotto anche che genera in distretti specializzati anche nell'integrazione tra il bianco e il mobile, come lei ricordava. Che cosa chiederete a Zanonato? Guardi, e noi è da 3 mesi e mezzo che chiediamo questo incontro per poter definire questa vertenza strategica a livello nazionale. Non ci sono vertenze di serie A o di serie B. Electrolux vale quanto all'Italia, Ilva, piuttosto che Fiat. La vera partita qual è? Non è che la possiamo liquidare semplicemente dicendo che un'ora lavorata a Susegana o in un'altra delle città delle quattro regioni coinvolte costa 4 volte tanto l'ora lavorata in Ungheria. Perché poi se andiamo a vedere i dati, dai dati che ho io in mano, che abbiamo noi, questi dati ci dicono che la delocalizzazione che Electrolux ha fatto in quei paesi, nei paesi ex PECO, quindi Ungheria, Polonia e affini, non è una produzione che guadagna. Per cui il vero tema è un tema di investimenti, di programmazione, di piano industriale. Quindi noi chiediamo, primo, per essere pratici, che sia riconosciuta la valenza strategica e la crisi di settore, quello né più né meno quello che ha fatto la Spagna e la Francia, in maniera tale che l'Europa non ci venga a dire che stiamo erogando aiuti di Stato. Secondo, noi vogliamo fare la nostra parte con le nostre finanziarie regionali, se abbiamo l'autorizzazione a livello nazionale, e poi definire fino in fondo una politica industriale. E queste sono tutte competenze che i non federalisti hanno voluto ad avvocare a Roma, e quindi il governo si prende la responsabilità di decidere. Se io avessi queste competenze deciderei in proprio e cercherei con i miei imprenditori del mobile piuttosto che Electrolux di delineare una strategia. Le dico, a vantaggio di tutti quelli che ci ascoltano, dottor Barigioni, che a Susegana in Veneto si fanno i famosi built-in, cioè il costruito dentro, nel senso che facciamo il frigorifero da incasso, e siamo assolutamente leader su questo, per cui non abbiamo problemi di concorrenza. Molto probabilmente sono altre le linee che non funzionano, però non vogliamo neanche far partire una guerra tra poveri. Cioè, non è che io gioisco perché chiude Porcia, che è a 30-40 km da Susegana, e quindi dico, beh, chiude Porcia in Friuli Venezia Giulia e si salvano i veneti. No, noi vogliamo fare un discorso che sia valido e sostenibile per tutti e quattro i governatori. E abbiamo ben chiaro che gli imprenditori sono degli eroi. Lei lo dice spesso nelle sue trasmissioni. Quando tu hai una tassazione media del 68,5% contro una media europea del 46%, chiedi già un grande sacrificio alle imprese in Italia. E allora si comincia a guardare in faccia la realtà e a fare quelle scelte che ancora oggi non si è avuto il coraggio di fare. Ma anche lei dell'idea, è ancora dell'idea che debba dimettersi Zanonato? Ma guardi, questa delle dimissioni è una vicenda che ha chiesto Deborah Serracchiani. Io posso dire che abbiamo atteso tre mesi e mezzo per una convocazione. Non voglio riaprire, anche se allora ho confermato questa richiesta, ma non voglio riaprire fronti, mi creda, perché oggi i lavoratori non hanno bisogno di ulteriori polemiche. E il ministro deve fare il ministro, ha i poteri per fare il ministro, glielo dice un ex ministro, cioè non è che il ministro non conta nulla. Deve far sedere al tavolo l'impresa, la proprietà, le parti sociali e i governatori. Dico semplicemente che Electrolux non è solo frigoriferi e lavatrici, è una multinazionale che ha 6.000 lavoratori in Italia ed ha molti altri interessi che rispondono a nomi altisonanti, non evito di citarli. No, quali? Si dice che i nomi sono che noi abbiamo conoscenza. Sono Ericsson, sono Alfa Laval, per cui immagino un rapporto normale tra governo e una grande multinazionale. Cioè, non dobbiamo far guerra alla multinazionale, ma semplicemente dobbiamo parlare assieme e trovare una soluzione. Sì, tra l'altro ricordavo anch'io che per esempio a Porcia sono 1.200 dipendenti, ma altri 2.000 sull'indotto, per cui moltiplicando i 6.000 dipendenti, considerando l'indotto, si arriva tranquillamente a 20.000 persone coinvolte. Ecco perché dico. Bravissimo. E mi riferisco alle varie regioni coinvolte. Detto ciò, c'è anche un problema di know-how, di competenze. È chiaro che nel momento in cui parliamo dei distretti che devono evolvere dal distretto alla filiera, avere la possibilità di offrire un sistema integrato tra il cosiddetto bianco, cioè lavatrici, lavastoviglie e quant'altro, e il mobilio arredo, ti permette di andare veramente in filiera su questo e di avere competenze, know-how sul territorio che alcuni singoli stabilimenti, vuoi in Polonia o in Ungheria, da soli non riescono ad avere. Le piace o la convince l'accordo proposto, quello con la mediazione della Confindustria di Pordenone, che prevederebbe una riduzione dell'8% dello stipendio in media, però anche del 50% dei permessi sindacali, congelamento di scatti di anzianità e incrementi contrattuali, e poi l'assorbimento delle festività che cadono di sabato e di domenica? Beh, guardi, innanzitutto io non ho letto questo accordo, perché le informazioni che ho in questo momento sono informazioni giornalistiche di agenzie, per cui hanno la sintesi che è data dalla comunicazione. Mi riservo di vederlo, ben vengano tutti gli apporti, cioè tutti quelli che hanno qualcosa da mettere sul tavolo lo facciano. Certo è che io parlerei anche di investimenti, dovremmo capire questa azienda se ha fatto investimenti, quanti ne ha fatti, quanti ha intenzione di farne, perché a me risulta ad esempio che questa azienda abbia perso delle grosse fette di mercato. Lo ricordava anche indirettamente prima il ministro quando diceva ci sono aziende che fanno prodotti più innovativi. Ad esempio sul frigorifero di incasso non ci sono queste aziende, nel senso che Electrolux è ancora forte e soprattutto pensa e progetta i suoi frigoriferi direttamente dal Veneto per tutto il mondo. La verità quindi è capire perché, se è vero fino in fondo, perché si perde e non si guadagna anche dove la manodopera costa poco. Capire che investimenti si vogliono fare da qui al futuro e vedere fino in fondo questo piano industriale. E poi ci saranno i sacrifici che chiederemo a tutti, però prima di chiedere i sacrifici varrebbe la pena di vedere nel complesso. Mi permetto, dottor Barisoni, fa solo un esempio. La Francia ha affrontato lo stesso problema con la stessa azienda e l'ha affrontato in maniera molto tonica e muscolare, anche con serenità, però è partita dal presupposto che non è che basta dire chiudo o ho difficoltà con il costo del lavoro. E poi c'è tutto un ragionamento da fare sul prodotto. E guarda, io non faccio il sindacalista e mi metto esattamente a metà tra la proprietà e i lavoratori e capisco le difficoltà dell'impresa, però dico, in Francia c'è, cioè, comunque hanno dichiarato la crisi di settore, in Francia comunque hanno voluto mettere in chiaro alcuni fatti tipo quello del piano industriale, e dopodiché si discute. Io non sono per fare la guerra all'azienda, sono per trovare una via di uscita. Va bene, vedremo cosa uscirà dall'incontro domani. Devo dire, da osservatore assolutamente esterno e non coinvolto come lei, la Serracchiani, che sì, mi passi il termine, il ministro Zanonato forse si è svegliato un po' tardi. Lui dice che è mesi che ci lavora, però finché non sono partiti gli attacchi veri e propri, questo tavolo non è stato convocato. Vediamo di recuperare, mettiamola così, il tempo perduto, perché insomma sul fronte tempismo, ecco, si poteva arrivare un po' prima e soprattutto subito dopo la proposta con la mediazione di Confindustria convocare il tavolo al Ministero dello Sviluppo Economico. Comunque, speriamo che tutto voi volga al meglio, domani ve lo racconteremo come cronaca. Grazie intanto al Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Grazie a lei e buona serata. E dopo il traffico restiamo in tema di imprese, perché poi è bello criticare, è bello raccontare gli sprechi, non abbiamo dimenticato la rubrica, non possiamo farla tutti i giorni, abbiate pazienza, ce ne sono di cose. Domani vi racconterò come la regione, per quello che riguarda la regione Emilia-Romagna, si stia allargando anche l'inchiesta sulle spese pazze, 1,8 milioni. Di tutto c'è dentro pure lì. Comunque poi bisogna anche calare i ragionamenti sul concreto. Allora, cosa fa il ministero per la vicenda Electrolux? Qual è il punto di caduta possibile sulla proposta diciamo di maggiore flessibilità e riduzione salariale per tenere gli stabilimenti aperti nel caso specifico poi quello di Porcia, ma anche non andare col cappello in mano. Io sono d'accordo che si può andare da Electrolux e dire facci capire esattamente il tuo piano industriale, perché poi noi possiamo prendere le nostre misure e contromisure e anche chiedere all'Europa lo stato di crisi del settore. Quello deve fare il ministro, però su questo Zanonato, diamoci una mossa. Ma poi è interessante anche vedere cosa capita nella realtà dei fatti quando un giovane volonteroso imprenditore, non figlio di imprenditori, non figlio di famosi finanzieri i cui papà non frequentano i salotti buoni, per così dire, della finanza, decide di lanciare una startup, visto che si dice sempre che i nostri cervelli sono in fuga, e io ribadisco sempre che stranamente la fuga dei cervelli non colpisce mai la classe politica italiana, non so se qualcuno se ne è mai accorto, però dico, andiamo a vedere dopo il traffico che cosa succede quando il Ministero, l'Università e Ricerca dice bene, questi progetti vanno bene, devono essere finanziati, qual è la risposta delle nostre banche? 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. nuove basi a Focus Economia, vecchia musica però per quello che riguarda rapporto banche e imprese, soprattutto se sono piccoli, piccolissimi imprenditori e giovani. Allora, l'ha scoperto solo 24 ore sta cosa, no? Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca lancia un bando per le start-up e approva 39 progetti con un finanziamento totale di 30 milioni di euro. Questo, insomma, lo dice il Ministero. Le banche però ai futuri start-up chiedono di versare di tasca propria una parte dei fondi, fino a 50.000 euro. Marzio Bartoloni, del Sole 24 Ore, buonasera, dimmi che non è vero. Ciao Sebastiano, buonasera a te e agli ascoltatori. No, diciamo che è vero, è un piccolo pasticcio, perché i numeri non sono enormi, però diciamo è sintomatico di quanto sia difficile fare innovazioni in questo paese. Ma allora, qual è l'obiezione delle banche? Perché qui non è un già sarebbe normale che uno, se ha una bella idea e anche se non ha un cognome importante, non frequenta i salotti giusti o non ha tanti debiti, potesse ottenere un prestito in banca. Ma scritto prima, e purtroppo l'ho perso, un medico che aveva proposto, i messaggi purtroppo sono così tanti che non li riesco a salvare, avrà proposto, sarà comprato di tasca propria l'apparecchio 3D per sviluppare una macchina che serviva per l'analisi di carattere tumorale, insomma non gliel'ha finanziata nessuno. Già sarebbe normale trovare un finanziamento per i piccoli, ma a maggior ragione se l'approvazione arriva dal Ministero dell'Istruzione, Ricerca e Università. Qual è l'obiezione? Cioè, che cosa hanno chiesto le banche in cambio? Allora, ti provo a spiegare. Diciamo che i progetti di startup hanno fatto una selezione di una decina di mesi e quando sembrava tutto filare liscio erano state selezionate. Le banche convenzionate col Ministero, a cui è stato affidato il compito di verificare la solidità dei progetti, hanno detto: bene, questi progetti vanno benissimo, sono molto interessanti, ma perché vadano in porto servono degli aumenti di capitale che spesso sono uguali ai finanziamenti che dovrebbero ricevere. È bellissima questa. E questo per alcuni giovani start-up che ci hanno contattato, ci hanno segnalato la cosa, è praticamente impossibile, perché appunto 50.000 euro magari da rimediare. Poi questo è stato l'errore del Ministero, che gli ha detto in una decina di giorni ricapitalizzate per somme importanti che... Per cui ora il Ministero anche oggi si è fatto sentire, insomma sembra che stia valutando la possibilità di farli pagare a rate questi aumenti di capitale, ma insomma comunque resta sempre un percorso a ostacoli. Ma perché, voglio dire, adesso io faccio risentire dopo il GR il Benigni della Melanzana, ma perché voglio dire, se uno vuole fare una startup, il Ministero dà l'approvazione al progetto, deve ricapitalizzare e dare garanzia di tasca propria una parte dei fondi che chiede? Io questo veramente esco pazzo, non lo capisco, perché sennò li mettevo io i soldi, ha ragione Benigni con le melanzane. Sai che c'è, Sebastiano, che c'è? Secondo me quando si lanciano questi bandi lo Stato dovrebbe avere più coraggio, investendo anche risorse più importanti, perché per un bando nazionale sono stati stanziati alla fine circa 25 milioni che sono briciole. Se si stanziassero più fondi, forse diciamo lo Stato potrebbe diventare quasi un incubatore di imprese nuove, per cui rischia che magari qualche startup vada male, ci mette più risorse, rischia che qualche startup vada male, ma magari qualcuna invece va bene e diventa un'impresa importante. Quindi secondo me la responsabilità è anche del Ministero di scrivere questi bandi. Lei è venuto qui, non ha soldi investiti, non ha titoli, non ha bot, non ha niente e vuole 100 milioni. E pretende che noi glieli diamo? Dettoli! Lei non mi vuole dare 100 milioni! Ma lei va contrario al suo nome, dottor Diotaiuti! Lei si contraddice! No, non ho niente! Certo che non ho niente, vengo a chiedere 100 milioni! Perché se avessi un miliardo me li darebbe 100 milioni? Certo! Certo! Ah sì, eh? Certo! Ma se avessi un miliardo, glieli darei io a lei 100 milioni! 200! Tenga, 300 milioni! Qui! Tenga! Non li voglio neanche, me ne resta 700! Grazie tante! Non li voglio! Li metta in tasca! Non li voglio! Li metta in tasca! Se c'ho un miliardo mi dà 100 milioni! Allora, se io ho bisogno di una melanzana! Una melanzana! Devo andare dall'ortolano, devo avere un miliardo di melanzane a casa? Non me l'ha mai detto l'ortolano? Ce l'ha lei un miliardo di melanzane? Mai! Né di pesche, di quello che c'ho bisogno! siamo arrivati! Eh sì, l'ho rimessa, seconda parte di Focus Economia con Sebastiano Barigioni, l'ho rimessa quello stacco di Benigni, perché insomma la vicenda dei progetti, delle start-up approvati dal Ministero dell'Università e Ricerca, a cui però le banche chiedono un finanziamento simile a quello che dovrebbero concedere, ricorda molto Benigni. Vedo un ascoltatore che dice, guardi che... lei se la prende sempre con le banche, ma si renda conto delle sofferenze che le banche hanno. Ma guardi che nessuno chiede alle banche di erogare credito in maniera indiscriminata, come hanno fatto nel passato con alcuni soggetti di cui parliamo tutti i giorni, che sono alle cronache, ma si chiede di credere, se lo ritengono, in una startup, perché sennò di che cosa stiamo parlando? I giovani, no, la fuga dei cervelli, tutti bei discorsi, poi quando vai sul concreto, 39 progetti approvati dal Ministero, finanziamento di 30 milioni di euro, le banche chiedono di versare di tasca propria a chi dovrebbe lanciare questo progetto una parte fino a 50 mila euro dei fondi. Marzio Bartoloni, scusami, ma non è la prima volta che questo capita? No, è già capitato con un precedente bando sempre per le start-up, questa volta del Ministero dello Sviluppo Economico, qui con l'aggravante che oltre aumenti di capitale ci sono voluti 3 anni per avere gli incentivi, tanto che alla fine molti dei progetti si sono persi per strada, perché il problema è che, e questa è la colpa, non è delle banche, ma ahimè delle lungaggini ministeriali. È vero, in questo caso è vero, certo. Questi bandi spesso fanno aspettare tantissimo. Ora, a parte questo delle start-up, nell'articolo di oggi ricordiamo un altro bando importante che è stato presentato a Squilli di Tromba sulle Smart Cities luglio del 2012. Ebbene, ancora non c'è la graduatoria definitiva, che dovrebbe essere dei progetti vincitori, dove partecipano sia imprese che centri di ricerca. Ma questa graduatoria dovrebbe essere pubblicata a giorni, così ci hanno assicurato dal Ministero, non significa che avranno subito i finanziamenti, che poi sono soprattutto credito agevolato, perché in questo caso appunto c'è la burocrazia di mezzo, i soldi del Ministero sono bloccati perché sono vecchi fondi, l'economia li deve sbloccare, quindi prima della prossima estate non saranno disponibili. Questo significa che i vincitori del progetto avranno i primi soldi, se tutto va bene, dopo 2 anni dal lancio del bando. Sì, in 2 anni uno fa tempo veramente andare all'estero e fare altro, ma qui c'è un problema invece del Ministero, no? Di soldi e di lungaggini burocratiche. Io sarei poi curioso di sapere quanto guadagnano i vari dirigenti del Ministero incaricati. Non me ne frega nulla se dite che sono populista, forse qualcuno da Mastrapasqua in giù non ha capito che è cambiata l'aria in questo paese, piaccia o non piaccia, per certe cose. Poi domani raccontiamo la regione Emilia Romagna, la regione Abruzzo, in cui chi dormiva con il presidente poi vinceva i bandi di gara, insomma lasciamo stare, non voglio andare oltre, sono oggi becco la querela. Grazie a Marzio Bartoloni del Sole 24 Ore. Grazie a voi, ciao. No, poi sarà un caso, no? Ma ieri il Financial Times pubblica un articolo intitolato Mittelstand Business Snap Up Distressed Italian Rivals, ossia le piccole e medie imprese tedesche arraffano le rivali italiane in difficoltà, dove spiega che le piccole e medie, non i grandi colossi tedeschi, le piccole e medie imprese tedesche stanno facilmente acquisendo le piccole e medie imprese italiane, spesso loro concorrenti, che sono in affanno perché non riescono ad accedere al credito e quindi a un certo momento uno o chiude o vende. Lo dice il Financial Times, ma non è tanto la Ducati acquisita da Volkswagen nell'aprile 2012, ci sono state 20 acquisizioni, anzi 23 nel 2013, 20 nel 2012. Faccio un esempio: la azienda leader per le analisi di laboratorio e servizi tecnici nel settore cibo, se l'è comprata l'anno scorso la bavarese TUV Sud. Ora io chiedo, veramente non c'è la banca disposta a finanziarla? Chiedo. Non sai, chiedi. Allora, la borsa oggi è un più 0,91% la chiusura, in linea con Parigi più 0,90%, più 0,33% Londra, più 0,60% Francoforte, più 0,36% l'America in questo momento. I casi di borsa oggi si chiamano UX più 11%, Mediaset più 6,30% e Azimut più 4,20%, e come sempre ce li raccontano i colleghi di Radio Corriere sulle 24 ore. Paolo Paronetto, buonasera. Buonasera a tutti. Vai, UX, Mediaset e Azimut. Sì, per quanto riguarda UX, diciamo che si tratta di un rimbalzo innescato dal giudizio positivo degli analisti di Société Générale, che hanno di fatto fornito il pretesto agli investitori per entrare sul titolo, che era sceso molto. Dall'inizio dell'anno UX ha perso oltre il 23%, scendendo da 34 a 26 euro. Oggi decisamente molti investitori, approfittando anche dell'attenzione per i titoli del lusso nel giorno in cui Luxottica ha dato i conti e in cui tutto il settore si è mosso bene, ha permesso a UX di fare un balzo appunto di quasi l'11%. Per quanto riguarda invece Mediaset, diciamo che la valutazione del mercato si inizia a concentrare sulla pay TV del gruppo, per cui si è stato annunciato una possibile integrazione tra le attività in Italia e in Spagna. Sono arrivate le prime stime che parlano di un valore per la pay TV tra i 350 e i 400 milioni, che sono valutate bene dal mercato, che quindi ha premiato il titolo Mediaset che è salito del 6,29%, mentre infine per quanto riguarda Azimut il titolo è salito del 4,20%, e qui ha approfittato delle parole ieri dell'amministratore delegato Pietro Giuliani, che ha confermato le strategie di espansione per acquisizioni in Italia, e secondo molti osservatori la possibile preda potrebbe essere Aletti Gestielle del Banco Popolare, ed è un'operazione che viene valutata positivamente dal mercato. Gli ispettori della Consob a Mediobanca, che sono arrivati oggi, ma all'inizio sembrava un normale controllo, in realtà poi abbiamo scoperto che mica tanto normale era, perché la Consob ha precisato che l'ispezione che si è svolta oggi è volta a verificare potenziali abusi di mercato eventualmente commessi nel 2013 nell'ambito di operazioni per le quali Mediobanca ha agito come intermediario negoziatore. Negoziatore, si sa quali operazioni Banca Generali si vociferava? Tratta in particolare appunto di, secondo quanto trapela, e della possibilità di operazioni di insider trading proprio nell'intermediazione del book building di Banca Generali e Milano Assicurazioni. Allora, Milano Assicurazioni. devo star buono, perché Mediobanca era il principale creditore della famiglia Ligresti nell'operazione. Comunque andiamo avanti. Mediobanca come ha reagito? Mediobanca, il titolo ha chiuso, è stato il quarto peggiore del FTSE MIB, ha chiuso in calo dello 0,75, ha ridotto, perdeva di più poco prima della fine, ha ridotto sul finale, comunque un calo dello 0,75%. Allora, ancora deboli le popolari oggi, meno 3,80 il Banco Popolare dopo l'annuncio dell'aumento di capitale da 1,5 miliardi arrivato nel fine settimana, la Pop Milano meno 1,90%. Monte dei Paschi perde il 3,31%, ma qui a mio avviso le popolari c'entrano poco, chiedo conferma, perché dopo l'invito ieri della Banca d'Italia alla Fondazione Monte dei Paschi, quella che ha voluto più tempo per l'aumento di capitale del Monte dei Paschi, chiedendo di arrivare fino a maggio, in un braccio di ferro tra la Presidente Antonella Mansi e il Presidente amministratore delegato del Monte dei Paschi, quindi Alessandro Profumo e Fabrizio Viola, ieri pressing della Banca d'Italia che ha detto velocemente trovate qualche compratore per le vostre quote, oggi il Tesoro ha auspicato che la Fondazione Monte dei Paschi di Siena si adoperi effettivamente, attivamente per stabilizzare la situazione della banca, riducendo la propria partecipazione e favorendo così l'ingresso di partner stabili e motivati alla partecipazione all'aumento di capitale. La reazione del titolo? Certo, MPS ha perso il 3,31%, per gran parte della giornata è stato tra il peggior titolo del FTSE MIB, sì, si aspetta, e la pressione delle autorità va in questo senso, una stabilizzazione della situazione, anche perché dopo la mossa del Banco Popolare di venerdì, che ha annunciato appunto l'aumento di capitale, il mercato prevede che molte altre banche di media dimensione possano arrivare sul mercato con operazioni analoghe per mettersi a posto prima dello stress test BCE, e questo ovviamente ovviamente affollerebbe un po' il mercato, quindi il Monte dei Paschi, che come dicevi tu ha rinviato l'operazione e fino a fine maggio potrebbe trovarsi in un mercato già, come dire, occupato da molti concorrenti. Sì, questo è il rischio, cioè l'aumento di capitale vuol dire chiedere soldi sul mercato. È chiaro che per chi prima parte, adesso non è che sia solo su questo, bisogna vedere anche chi lo chiede, qual è il progetto, qual è la affidabilità, però il mercato non è infinito, chi prima parte rischia di essere più avvantaggiato nel recuperare appunto la liquidità necessaria, se arrivi tardi magari eventuali aderenti hanno già aderito ad altri aumenti di capitale. Migliori e peggiori in assoluto, oggi per quello che riguarda Piazza Affari, High Real più 20%, Screen Service più 12,60, Yux appunto più 11, P Quadro più 8,12 e poi Fronto e Banca Generali più 7,36. Fronte opposto Digital Magics meno 6%, BMW meno 4,50 e basta. E Seat Pagine Gialle meno 5,56%. Grazie a Paolo Paronetto, Radio Colli, Sole 24 Ore. Parte di Focus Economia, vediamo se riusciamo a far ballare Mario Platero, noto conoscitore anche di tutti i migliori locali di New York. Mario, buonasera, corrispondente. Buonasera Sebastiano, un pochino che non ci sentiamo. Corrispondente del Sole 24 da New York. Scusa una cosa Mario, adesso questa sera Barack Obama farà l'annuale discorso sullo stato dell'Unione, in cui racconterà come va l'America e come la vede in prospettiva, però oggi i giornali americani già anticipavano che lui chiederà di aumentare il salario minimo dei dipendenti federali, portandolo da $7.25 a $10.10 l'ora per i nuovi contratti, che venga aumentato anche per i contratti precedenti entro 2015 e poi proporrà al Congresso di indicizzare i salari al tasso di inflazione, che da noi si chiamava scala mobile, roba che Luciano Lama resta perplesso nella tomba. Allora, Barack Obama prende una sterzata da welfare che fa impallidire anche Roosevelt? Ma dunque, in realtà Barack Obama cerca di essere pragmatico, Sebastiano, perché lui in questo discorso, che è il discorso programmatico guardando in avanti, cioè quella che sarà l'azione della sua amministrazione tra il 2014 e l'inizio del 2015, non potrà fare grandi proposte, perché per le grandi proposte ha bisogno dell'appoggio del Congresso, il Congresso, la Camera soprattutto, che è chiave controllata dai repubblicani. Ci sono elezioni a novembre per il rinnovo della Camera, quindi questo è un anno fortemente politicizzato, in cui non vedo che alcune proposte nuove del Presidente possano essere raccolte dalla Camera. Dunque Obama, che arriva a questo discorso comunque debole per vari errori, scivoloni che lui stesso purtroppo ha fatto, per esempio il piano sanitario, che come sai non ha funzionato all'inizio, adesso sta recuperando e gli ha portato un grave danno di immagine, quindi arriva debole a questo appuntamento col paese, perché il discorso è solenne, Camere riunite, Parlamento riunito in seduta plenaria, tutte le reti unificate che trasmettono questo discorso, arriva debole, non ha la forza in vista di questo appuntamento politico di venire con delle cose nuove e dunque ricorre a un escamotage e cioè userà il suo potere, diciamo, di decreto, come diremmo noi, quindi gli ordini esecutivi, per mettere in atto alcune proposte che possono o non possono più o meno essere condivise. Per esempio sul salario minimo era, mi pare, 7 anni che non lo aumentavano, sì, ed è fermo a $7 allora, e quindi l'idea è di portarlo a 10, come dicevi tu, 10,25, facendo tutta una serie di cambi. È un punto di partenza, un punto negoziale. Ecco, sono stati 22 prego. Aumenti del salario minimo negli ultimi 40 anni, credo, 50 anni in America, insomma in un periodo piuttosto lungo, quindi questo aumento è dovuto. Un'altra cosa su cui lavorerà invece, che forse troverà l'appoggio dei repubblicani e di cui parlerà, è la legge sull'immigrazione. Però non farà granché il Presidente in questo suo discorso. Gli ordini esecutivi, per esempio, su una migliorare una questione sulle pensioni, introdurre degli elementi di addestramento per i lavoratori disoccupati. Sono uno strumento che lui può usare per così dare l'idea che è attivo e che sta cercando di raggiungere quegli obiettivi di uguaglianza di cui l'America, da cui l'America si è molto allontanata. Ma condivido con te l'idea di introdurre l'indicizzazione, sarebbe non, non è che si abbassa l'inflazione in America, non è come nell'area euro. Un'ultima domanda però, Mario, ancora tre minuti. Nel frattempo, mentre Barack Obama farà, come tu dici, con poche cartucce, quindi ricorrendo anche un po' di retorica e escamotage, il discorso sullo Stato dell'Unione, il resto del mondo si interroga su quello che continuerà a fare la Yellen, la nuova numero uno della Federal Reserve, della Banca Centrale Americana. E quindi la politica di andare a ridurre lo stampaggio di dollari andrà avanti? Perché abbiamo visto un po' di scossoni in questi giorni. Sì, dunque, allora ricordiamo che questo è l'ultimo incontro del Federal Open Market Committee a cui partecipa Ben Bernanke. Dunque ci sarà una decisione collegiale, non ci saranno degli incontri stampa. E il rumor, ma purtroppo sappiamo, o per fortuna, che la Fed poi è sempre in grado di sorprendere, ma c'è una buona corrente di pensiero che ritiene che si possa procedere con una nuova stretta, con una nuova riduzione degli acquisti sul mercato. Per questo abbiamo visto anche queste turbolenze di borsa, una riduzione dunque del quantitative easing numero 3, che come sai prevede 85, poi è stato ridotto a 75, dovrebbe essere ridotto ulteriormente, qualcuno, ti ripeto, dice di 10 miliardi in questa tornata. Resta il fatto che comunque anche se si scende, diciamo, che ti posso dire, a 60-65 miliardi, è comunque una bella dose di... Ah beh, sono sempre 65 miliardi al mese di dollari che vengono stampati, esatto. Un poca roba. Che vengono stampati, sì, che vengono usati, diciamo, per l'acquisto, attenzione, di titoli di Stato, sì. Su questo Bernanke poi è stato chiaro, perché il governo americano poi ha fatto dei profitti molto buoni su questi investimenti e non sono andati perduti. No, è vero. Ma lo spavento, come raccontavamo bene ieri con Alessandro Praterotti, questi soldi poi venivano investiti anche in valute di paesi emergenti. Nel momento in cui vengono ridotti, è chiaro che c'è una, tra virgolette, fuga, un'uscita di soldi, di liquidità dai paesi emergenti per andare su dollaro e anche euro e franco svizzero, ecco perché poi al di là di tutti i problemi dell'Argentina assistiamo a turbolenze continue sulla lira turca e altre valute. Grazie Mario Platero. Grazie a te Sebastiano. Corrispondente su 24 ore dagli Stati Uniti. Ed è tutto per questa puntata di Focus Economia, che torna domani dalle 17 in poi. Intanto, come sempre, un augurio di buona serata da Sebastiano Barisoni. Radio 24. La passione si sente.